soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti da Salt Peanuts, sono Sandro Baroni, anche per oggi. Proposte nuove, come è l'ambizione di Salt Peanuts, proposte nuove, quindi nuovi talenti. Direi che il filone conduttore può essere quello di tre musicisti, tutti e tre hanno una robusta esperienza, perlomeno di una decina d'anni o 10 o 15 anni, e da sidemen, da gregari, con qualche esperienza anche come leadership, però escono poi alcuni progetti, alcune cose che raccolgono quelle che sono le loro ambizioni, i loro momenti più maturi. Cominciamo col primo, si tratta di Jason Ajemian. È un contrabbassista che prende come riferimento l'area di Chicago, quindi ha un'esperienza nell'ambito della musica di Chicago, quindi con Mazure, che è l'orchestra dell'Exploding Star, oppure con Vandermark, anche un'esperienza nella Sun Ra Orchestra, quindi quella che è stata ereditata dai musicisti dell'orchestra di Sun Ra, e molte altre, in molte altre occasioni. Recentemente è uscito peraltro un disco per la Delmark, l'etichetta che testimonia maggiormente quella che è l'esperienza chicagoana, un disco a nome, appunto, con la sua leadership, che a mio avviso non è molto ben riuscito, probabilmente forse anche una fase di passaggio, ma sempre quest'anno è stato pubblicato per fortuna dall'etichetta No Business, che è un'etichetta piuttosto attenta anche a quelle che sono alcune perle della situazione culturale jazzistica americana, e propone un disco in vinile, una registrazione fatta diversi anni fa, nel 2008, che vede appunto la leadership di Jason Ajemian con dei partners d'eccezione. Infatti si tratta di Tony Malaby al sax tenore, Rob Mazurek alla tromba, alla cornetta, e Chad Taylor alla batteria. Quindi un quartetto decisamente eccezionale, e le musiche sono buone composizioni, danno una buona prova anche delle sue qualità di compositore, di organizzatore dell'esperienza musicale. Ascoltiamo un paio di brani da questo bel lavoro uscito diversi anni fa, che per fortuna è stato pubblicato quest'anno. Thank you. Questo era il quartetto, un quartetto di All Star guidato da Jason Ajemian, il disco intitolato Away a Land of Life, un quartetto appunto che prevedeva, oltre lo stesso Ajemian al contrabbasso, Tony Malaby a sax, Rob Mazurek alla cornetta e Chad Taylor alla batteria. Questa è musica naturalmente che si può giovare della presenza di solisti di eccezione e la qualità complessiva del lavoro ne risente in modo determinante, direi. Un altro musicista interessante che sta proponendosi come leader del quale è uscito recentemente un disco per la Out Now Recordings, che anche questa è un'etichetta attenta alle cose più interessanti del momento. Si tratta di Alex Weiss, un sassofonista che peraltro ha una formazione che si svolge in molte parti, sia dell'America che dell'Europa. Infatti si forma inizialmente nell'ambito di Boston da un punto di vista scolastico, poi si sposta nella West Coast, e poi anche in Danimarca, quindi, e collabora con John Cicai, con formazioni sempre legate a quella che è un'avanguardia, l'avanguardia più interessante degli ultimi anni, specialmente la West Coast con questa vitalità e anche originalità nella costruzione delle musiche, nella percezione di quello che è l'immaginazione jazzistica, è determinante. Quindi poi il suo spostamento nella Grande Mela si rivela quanto mai creativo anche negli incontri con i vari musicisti dell'avanguardia della downtown newyorkese. Per esempio collabora con musicisti come Chess Smith, come la Mary Alvorson, come molti altri comunque legati a questi ambienti. Questo disco recente è una buona prova della maturità del linguaggio che ha acquisito, un linguaggio che risente non solo della tradizione del cosiddetto new free o free bop, ma anche di una radice rock piuttosto robusta, che appunto è quella anche una matrice che può accomunare molti dei musicisti dell'avanguardia attuale. E la formazione, oltre a Lax Ways al tenore, al baritono, Rick Parker al trombone, Eyal Maoz alla chitarra, una presenza importante, poi al basso elettrico Dmitri Ischenko e Chet Smith alla batteria. Si aggiunge anche le percussioni al birimbau Mark Hobos. Ascoltiamo tre composizioni di questo buon disco. Thank you. Thank you. Questo era il gruppo di Alex Weiss, sassofonista, diciamo che si può annoverare tra quella schiera di musicisti che stanno tra i 30 e i 40 anni e che si consolidano su uno stile proprio, con la loro capacità formale, che sta proponendosi tra le più interessanti, perlomeno questo è il caso di Alex Weiss, a mio avviso. Il disco è uscito qualche mese fa ed è intitolato Fighter Planes and Praying Mantis. L'ultimo dei tre, diciamo, di questi nuovi talenti è un altro musicista che come sideman ha lavorato per ormai da diversi anni lavora. Si tratta di Jameo Brown, un batterista, percussionista, che dopo aver militato tra i gruppi anche più diversi dell'area newyorkese, comunque sempre, fa parte, diciamo, di quel gruppo di musicisti anche che girano intorno al Lincoln Center, all'orchestra di Wynton Marsalis, quindi anche lui fa parte dell'orchestra degli ambasciatori del jazz nel mondo. Poi ha lavorato con Carlos Santana, con Stevie Wonder, con molti anche dell'ambiente pop o rock, e recentemente, dopo i suoi inizi sono stati poi peraltro nell'orchestra di Charlie Mingus, l'orchestra organizzata dalla vedova di Charlie Mingus, e attualmente si è proposto con questo progetto, un progetto al quale evidentemente teneva molto e che è decisamente riuscito. Hanno collaborato con lui per la costruzione, per gli arrangiamenti di questo bel lavoro uscito recentemente, J.D. Allen, sassofonista, che anche lui si può annoverare tra i talenti emergenti più interessanti, e dal chitarrista Chris Scholar. È una formazione abbastanza allargata che prevede la presenza anche di voci, di coro, di tastiere. Altro ospite d'onore di questa formazione è Gary Allen al pianoforte, che tra l'altro Jameo Brown ha partecipato in diverse occasioni al gruppo di Gary Allen. E ascoltiamo adesso alcuni di questi brani. È concepito questo Transcendence, è concepito come una sorta di opera unitaria, quindi ha una narrazione con un inizio e una fine, ed ha dei riferimenti che prendono sicuramente l'avvio dal blues e dai canti di lavoro, quindi dalla tradizione più profonda dell'America nera, e poi però si muove anche trovando dei curiosi punti di contatto tra il blues e la musica indiana, ad esempio. Ed è interessante appunto il risultato estetico, tutto sommato, poi si valuta se il lavoro è ben riuscito oppure no alla fine. Il risultato in questo caso direi che è decisamente apprezzabile. Ascoltiamo adesso alcuni brani presi da questo bel lavoro intitolato Transcendence. Well, it's a mean word to live in, to stay in. This world is a mean world to live in, to stay in. No mother, no father, no sister, Lord, no brother. This world is a mean world to live in, to stay in. Sometimes you got to groan so hard to live in, to stay in. Sometimes you got to groan so hard to live in, to stay in. No mother, no father, no sister, Lord, no brother. This world is a mean world This world is a mean world. Living to end. No mother, no father, no sister, love, no brother. Thank you. Questo era Transcendence di Jameo Brown, un bel disco, un bel lavoro, molto evocativo. Jameo Brown, peraltro, si avverte anche la sua frequentazione del Lincoln Center in questa evocazione, come dire, della radice del blues e del jazz, quindi della storia dei neri americani. Ma adesso, al di là poi delle forme che si ricercano, il risultato che conta, ed il risultato è decisamente positivo. Un ottimo il lavoro anche di J.D. Allen al sax, che anche ora una volta conferma le sue qualità non solo di sassofonista, ma di interprete del blues, del linguaggio del blues. E poi naturalmente anche l'importanza negli arrangiamenti di Chris Solar alla chitarra. E questo era anche l'ultimo brano per oggi. Vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare e anche le informazioni rispetto ai dischi le potete trovare nel nostro sito in radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.